quando abbiamo invitato qui in biblioteca l'assessore Mussiner e i tecnici dell'ufficio opere pubbliche, che hanno presentato il volume che raccoglieva e documentava l'opera pubblica negli ultimi 20 anni sul nostro territorio. Siamo poi andati avanti in primavera organizzando un'altra serata dedicata questa volta all'intervento umano, sempre sul nostro territorio, però in tempi alquanto remoti. Avevamo anche in quell'occasione l'ospite il dottor Tecchiatti, che appunto lavora come archeologo all'ufficio beni archeologici della provincia, e avevamo potuto conoscere anche il lavoro dell'uomo in secoli molto più lontani. Adesso ritorniamo all'attualità. Per noi l'attualità, per questa biblioteca, la biblioteca provinciale Claudia Augusta, è importante, perché per noi un domani questa attualità sarà la storia, quindi dobbiamo sempre guardarla, fotografarla e considerarla in prospettiva. La biblioteca, come voi sapete, sta raccogliendo da 8 anni materiale di ogni genere che possa servire a conoscere meglio il territorio nei suoi molteplici aspetti, quindi non solo libri. Stiamo raccogliendo periodici, li stiamo digitalizzando, stiamo raccogliendo materiale iconografico, quindi fotografie e dépliant, volantini, tutto quello che può offrire un domani e anche oggi alle persone, agli interessati, agli studiosi e alle studiose, una fotografia precisa e un documento preciso su cui poi costruire eventualmente anche un percorso di ricerca. Ma la biblioteca non è solo questo, chiaramente raccogliendo libri raccoglie, conserva e propone, oppure mette semplicemente a disposizione liberamente le idee, le emozioni, le sensazioni di qualunque autore. Il nostro taglio è abbastanza particolare, riguarda sempre il territorio, quindi legato al territorio sarà anche tutto quello che riguarda la narrativa, la poesia. Abbiamo delle serate anche dedicate a questo, da questo ambito. E infatti il prossimo appuntamento di lunedì 28 settembre sarà proprio dedicato alla poesia. Avremo autori locali, il titolo sarà Il mare nella poesia, la presentazione di un libro con Silvano De Marchi, Eugen Galasso, Franco Lattino e Franco Maria Maggi. Questo è lo spot che faccio di consueto, sempre quando c'è il pubblico ad un'iniziativa. Intanto ringrazio i due relatori. Questa sera abbiamo appunto con noi Giorgio Mezzalira, che è storico e ci ha già accompagnato in numerose nostre iniziative, e il dottor Umberto Tecchiatti, che è non solo archeologo della provincia, ma anche è presidente di Italia Nostra, e quindi questa sera interverrà anche in qualità di presidente di questa sezione dell'associazione a livello nazionale. Ecco, come sempre do anche delle indicazioni bibliografiche, perché la nostra attività si lega sempre anche al discorso bibliografico. Abbiamo creato una vetrina che è solo un assaggio di quello che abbiamo. Chiaramente è a vostra disposizione una completa bibliografia legata a questi temi, che potete chiedere alle mie colleghe, le bibliotecarie. Porto i saluti dell'assessore Tomasini, che probabilmente ci raggiunge nel corso della serata, e ringrazio l'assessore Schoensberg, che è venuto stasera a trovarci e ci accompagnerà in questa serata. Grazie a tutti voi e prego. Grazie. Io ho pensato di iniziare questo mio intervento, che intende ripercorrere in breve la vicenda architettonica del ventennio, apparecchiando il tavolo partendo da un esempio. Mi pare un esempio ben riuscito di quello che può essere definito un matrimonio ben riuscito tra quello che poteva essere definito un relitto fascista e quella che invece è stata un'operazione di salvaguardia e di tutela. E parlo dell'Eurac. Perché inizio da qui? Inizio da qui perché mi pare che si sia riuscito, con questo recupero di un edificio del ventennio, si siano riusciti a raccogliere, ad accogliere alcuni obiettivi importanti che sono dietro, secondo me, a qualsiasi tipo di recupero che può essere prodotto nei confronti dell'architettura e del sopravvissuto architettonico di quel periodo. Il primo obiettivo ad essere colto è quello di aver permesso un recupero intelligente di un'opera del ventennio, ben accolto dalla maggioranza della cittadinanza e con il consenso pressoché di tutti i gruppi linguistici. Il secondo obiettivo che è stato colto è quello di averne fatto un polo della ricerca e della formazione scientifica proprio nel posto dove si educava a credere, obbedire e combattere. Infatti parliamo della vecchia casa della G, quando parliamo dell'Euro. Terzo obiettivo è quello di aver strappato al degrado e rivalutato un'importante opera dell'architettura razionalista degli anni 30 in una lettura della storia della vicenda architettonica che dà probabilmente conto e mette in un giusto, diciamo, in un giusto contesto rivalutativo una storia che è quella della vicenda architettonica del ventennio, su cui molto spesso si è dato più un giudizio morale che storico. Quarto obiettivo, quello di aver contribuito a ridare voce ad un linguaggio dell'architettura che esalta l'idea di città e di organismo urbano. E penso che questa sia anche una delle chiavi importanti attraverso le quali leggere anche la vicenda e la storia di Bolzano. Noi sappiamo che l'identità urbana, il concetto di città, non sempre si è sposato bene con il concetto di Heimat. Heimat riguarda più un concetto relativo alla provincia, è quel concetto di appartenenza che ha più il land come riferimento che non la città. La città è stata spesso considerata come un organismo esterno, estraneo. Ecco, la rivalutazione di un edificio che ha come sua vocazione quella di esprimere anche un concetto di città e di rilanciarlo, quindi in una rilettura nuova, in un contesto nuovo, certo emancipato, certo del dopoguerra, in un concetto di convivenza, ecco, mi è sembrato un, almeno per giudizio personale, mi è sembrato un'ottima operazione. Un'ottima operazione laddove sappiamo il capoluogo, da un punto di vista anche della vicenda architettonica, non solo del ventennio ma anche del dopoguerra, ha sempre fatto fatica a trovare un proprio disegno, una propria identità attraverso i suoi luoghi, attraverso gli edifici, attraverso le sue architetture. Basti pensare all'operazione ex semirurale. Voi sapete, oggi al posto delle semirurali c'è un quartiere nuovo. Ecco, attraversare quel quartiere significa passare in rassegna a stili architettonici, tra l'altro con architetti di grande qualità, che possono definire, che vengono definiti una sorta di galleria della storia dell'architettura contemporanea. Diceva il compianto Silvano Bassetti che molto spesso arrivavano delegazioni di studenti di architettura a vedere che cosa era stato costruito. Passare nelle ex semirurali oggi significa attraversare tanti concetti di città, dalla casette degli inglesi, dove prevale un concetto di città tagliato a misura di individuo, fino agli Höfe viennesi, fino alle case di Aimonino, che rilanciano invece un'idea del quartiere, della vita collettiva. Ecco, noi passiamo in rassegna a tanti di questi stili architettonici, che significano anche modi di vivere la città e modi di intendere la città, in una ricerca che è, da un certo punto di vista, molto interessante, ma anche che ci rimanda ad una difficoltà di Bolzano di mostrare la sua idea di città. Ecco, rivalutare l'architettura di quegli anni significa non rimuovere un'idea di città, ma valorizzarla nel suo diciamo, significato odierno, no? E rilanciando anche una cultura dell'identità urbana che raccoglie in sé tutti quelli che in una città vivono, indipendentemente dalla lingua che parlano, indipendentemente dalla cultura che hanno come loro radice. Ecco, diciamo che nel recupero dell'Eurac, secondo me, tutti questi obiettivi sono stati raggiunti. E quindi l'esempio dell'Eurac sembrerebbe suggerire che sia possibile procedere anche per altri edifici. Certo, il Monumento alla Vittoria non è l'ex G, ma ciò non toglie che una corretta opera di recupero e di ricontestualizzazione, di storicizzazione, permetterebbe di essere leggibile storicamente, di essere ricontestualizzato, appunto. E quando parliamo di architettura degli anni 20 e 30, io mi riferisco oggi a due storici dell'architettura regionali, ma conosciuti anche a livello nazionale, da una parte Martignoni che ha scritto saggi importanti sull'architettura del ventennio, e dall'altro Zöbel, che è stato il primo insieme a Ippolito a fare uno studio compiuto sull'architettura della Bolzano italiana. Ecco, loro, la rivalutazione che viene fatta a proposito di quell'architettura degli anni 20 e degli anni 30 del concetto urbanistico è evidentemente una rivalutazione che parte dalla considerazione critica di ciò che è stato costruito nel dopoguerra, cioè si è costruita a macchia di leopardo senza nessuna idea di come la città si sarebbe dovuta costruire, ed è evidente che quell'architettura, quell'urbanistica del ventennio rappresentava un modello, perché lì c'era un'idea di città che aveva un capo e una coda. Quindi la rivalutazione che è stata fatta di quell'architettura parte dalla considerazione che nessuna idea di città, di organismo urbano, di concetto architettonico abbiamo vissuto in quella che è stata la rapina del territorio, soprattutto nel dopoguerra e poi negli anni seguenti, negli anni 60. Ed è ancora Martignoni che ricorda, lo cito, l'iperbole del linguaggio monumentale vittorio, in riferimento evidentemente alla città degli anni tardi, anni 20 e anni 30, il disegno di Piacentini, è suo malgrado un segno distintivo di un paesaggio sempre più invaso da un'edilizia incontrollata e senza qualità che tutto confonde e ingloba, e Zöggel rinforza questo giudizio critico e rivalutativo, per altro verso dell'architettura degli anni 20 e 30, parlando dell'urbanistica moderna come risultato di un'urbanistica, come il risultato dell'urbanistica moderna, dice, la periferia, quindi non la città, non il contesto, nel contesto urbano. Ecco, noi sappiamo, se guardiamo Bolzano, che Bolzano senza quell'architettura, senza il rilievo che ha avuto quell'architettura, è una città che scomparirebbe, ci sarebbe un vuoto fisico nella sua storia, non sarebbe più riconoscibile nel suo sviluppo. Ecco, Martignoni dice, in molte operazioni che sono state fatte in altre città in Italia, dove anche assecondando la speculazione edilizia si è prodotta una rimozione fisica anche di edifici, di architettura, di qualità di quegli anni, ecco, lì si è prodotta una cesura difficilmente sanabile. Ecco, un organismo urbano è anche l'organismo che racconta la sua storia attraverso il suo sviluppo. Però sappiamo benissimo che quando parliamo di rivalutazione, di salvaguardia di questo patrimonio, potremmo definirlo, patrimonio architettonico, sappiamo che ci troviamo di fronte ad una complessa e delicata operazione. A, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. B, di individuazione degli strumenti che possono permettere di salvaguardare questo patrimonio. Oggi sappiamo, oltre alla tutela per la registrazione, per la sala. No, perché presentemente. Ah. Dicevo, gli strumenti, il secondo strumento, oltre alle norme della tutela delle belle arti, il comune si è dotato ad esempio di questo strumento che si chiama tutela degli insiemi, che permette oggi di salvaguardare anche questo tipo di patrimonio architettonico. E il terzo è necessariamente un'operazione culturale profonda che c'è un fischio che, vabbè. Dicevo, di un'operazione culturale ampia e profonda che abbia come suo percorso e come guida l'acquisizione e la diffusione possibilmente di conoscenze storiche avanzate. Ecco, se questa è la premessa rispetto anche alla storia della vicenda architettonica del ventennio, il confronto con queste sopravvivenze, anche con la spigolosità del dibattito, deve essere un confronto aperto e non reticente. Che cosa vuol dire? Cito ancora due passaggi, uno sempre di Martignoni e un altro di uno storico dell'architettura che è stato per resto anche a Bolzano, si chiama Paolo Nicoloso, e che oggi possiamo dire è quello che ha prodotto gli ultimi studi più documentati e più avanzati sul rapporto fascismo e architettura. Martignoni dice: l'eredità della produzione monumentale, qui si parla dei monumenti, degli anni 20 e 30 del secolo scorso, non è liquidabile con una semplice alzata di spalle. Non lo è per ragioni storiche e documentarie, perché attraverso l'erezione dei documenti si può leggere lo spirito e la realtà di un'epoca, bella o brutta che sia. Questo vale per l'intera Italia, per l'intero territorio italiano, vale tanto più per Bolzano, ma vale anche per tutte le opere, non solo per i monumenti, anche per tutte le opere, tutti gli edifici che in quel periodo sono stati prodotti. E la seconda citazione, quella di Nicoloso, entra in una questione altrettanto delicata, credo, e importante da affrontare. Dice: le architetture fasciste sono entrate a far parte del patrimonio culturale della nazione. L'identità degli italiani si costruisce attorno ai luoghi della memoria e comprende anche quei monumenti che vogliono ricordare il mito di potenza del fascismo che Mussolini ha voluto costruire per educare fascisticamente la nazione. Dispositivi identitari creati per funzionare anche e soprattutto dopo la morte di Mussolini, che agiscono lentamente e che sfuggono nella maggioranza dei casi al filtro del vaglio critico. Tutto questo sembrerebbe spingere verso un'operazione di rivalutazione, di riqualificazione, di contestualizzazione storica anche per questo, per togliere dalla cultura o da una mentalità comune anche l'idea che il fascismo in fin dei conti ha fatto anche delle cose buone. Il giudizio storico, il giudizio critico non può essere questo. Il giudizio critico va valutato sulla base delle competenze, delle conoscenze che oggi la storia, particolarmente la storia anche dell'architettura, riescono e sono state in grado di produrre. Ecco, su queste basi deve essere prodotto lo sforzo per sciogliere ancora i nodi che ci sono per arrivare a traguardare questa importante operazione culturale, che è una rivalutazione e nello stesso tempo un tentativo per togliere, per fare un passo in avanti rispetto alla rimozione del passato, una rimozione che significa anche, in fin dei conti, nascondersi dietro questa opinione comune che, in fin dei conti, il fascismo abbia fatto anche delle cose buone. Non capiamo che cosa è stato il fascismo, che cosa è stata la vicenda architettonica del ventennio se non entriamo nel vivo della questione. Ovviamente nei minuti che mi rimangono non potrò entrare nel dettaglio né dei singoli edifici né della singola storia. Provo però a soffermarmi su due elementi. Il primo, in breve, cercare di contestualizzare che cos'è stata la storia, la vicenda architettonica in Italia a Bolzano, e il secondo, soffermarmi in particolare a capire che cosa è stato, come il fascismo ha tradotto il concetto di modernità, di nuovo, che è un portato dell'architettura del ventennio, degli architetti che hanno lavorato nel ventennio, e di come oggi ancora noi, in fin dei conti, immaginiamo sia la nostra presenza in Alto Adige. Insomma, è un discorso abbastanza comune, no? A volte si sente, ma noi, in fin dei conti, gli italiani abbiamo portato la città in Alto Adige, abbiamo portato il moderno dove c'era la campagna, no? C'è una sorta di rivendicazione di borghese di appartenenza. Ecco, io credo che la storia può aiutare anche a capire quali sono le pieghe del moderno, quali sono le pieghe di questa presenza italiana che si qualifica anche con il moderno, con la borghesia arrivata nel ventennio. E per iniziare questo breve excursus che riguarda la vicenda architettonica del ventennio, partiamo da una premessa che vale una chiave di lettura. L'azione pianificata del regime per eliminare il carattere e l'elemento tedesco in Alto Adige e nella sua politica di dominio per far prevalere l'elemento italiano e il carattere italiano in Alto Adige ha avuto nell'architettura un linguaggio, e l'architettura fu in buona parte il simbolo e il manifesto di questa politica, così come fu il simbolo e il manifesto della creazione dell'uomo nuovo in tutta l'Italia. Cioè, l'architettura fu piegata a queste ragioni. Questa premessa però non può portare ad affermare, primo, che l'architettura degli anni 30 è fascista, secondo, che esiste un mondo dell'architettura opposto al fascismo. Sono queste due le coordinate che ci permettono di capire che cos'è stata la vicenda architettonica negli anni 20 e 30 e soprattutto qual è stato il compito, la funzione e il ruolo di una classe nuova, che è quella degli architetti e degli urbanisti, che nasce in quel periodo. Se si volesse, in breve, semplificando, cercare di capire cosa è stata l'architettura del ventennio, possiamo dire che è stato il tentativo per far convivere il classico e il moderno. Da una parte Piacentini, architetto che non fu attivo solo a Bolzano, era l'architetto ufficiale del regime, e dall'altra parte questi giovani architetti che fin dal 26 si erano costituiti, il gruppo, faccio riferimento al gruppo 7, che erano i giovani architetti che avevano portato in Italia le nuove tendenze europee dell'architettura, in particolare il razionalismo, che avevano sposato questa nuova architettura rivoluzionaria che aveva aperto una guerra anche forte contro il classicismo, contro l'accademia, contro il decorativismo, e spingevano verso un'architettura più funzionale, meno rappresentativa se vogliamo, ma più rispondente alla nuova società. La nuova società era una società industriale che si apriva ai nuovi bisogni, quindi la società del Novecento che avanzava. Gli interpreti furono, come abbiamo detto, Piacentini da una parte e questo gruppo di giovani architetti razionalisti, due poli distanti ma che hanno un elemento importante in comune, ed è quello che si diceva prima: quando parliamo di architetti e di urbanisti parliamo di una compagine professionale nata e affermatasi negli anni 20 e 30. In quegli anni nasce l'ordine professionale degli architetti, nasce nel 23, nella seconda metà degli anni 20 nascono le prime facoltà universitarie di architettura, più tardi nascerà la disciplina urbanistica. E nascono per corrispondere alle esigenze di edificare e di interpretare il nuovo clima che il fascismo inaugura, e di interpretare il moderno. Nel moderno, in questa chiave, va capita anche tutta quella politica che, portata avanti dal regime e interpretata particolarmente dal Partito Nazionale Fascista, che mira a scardinare quelle che erano le resistenze e le tradizioni per quanto riguarda l'architettura e l'edilizia, che ancora rimanevano dentro agli enti, comprese le competenze, i tecnici che costruivano per gli enti, per i comuni e per gli altri enti nazionali, anche ovviamente per gli istituti delle case popolari. Ecco, una politica che fa forza sul moderno e fa forza su queste nuove categorie professionali per scardinare, per togliere, sciogliere le resistenze che impedivano, primo, di costruire in un certo modo, due, di costruire dove si voleva costruire. Questo va tenuto presente, perché se non contestualizziamo questo, facciamo fatica a capire qual è stato il collegamento fra i giovani architetti razionalisti, i rivoluzionari, e la loro adesione convinta, per alcuni, al fascismo. Il fascismo, d'altra parte, utilizzò la spinta modernista di questi architetti, perché capì che in questi poteva, diciamo, mantenere vivo quell'idea rivoluzionaria del fascismo, che ovviamente con il governo, con le necessità di governo e della politica, un po' si affievoliva. Non a caso agli architetti razionalisti Mussolini poi lasciò e diede la possibilità di intervenire nell'edificazione di tutti gli edifici che avevano qualcosa a che fare o con l'educazione fascista o con il partito. Uno dei monumenti più importanti dell'architettura moderna italiana e razionalista è la Casa del Fascio di Como, che viene ancora considerata in tutti gli studi di architettura come una delle massime espressioni del razionalismo italiano. Allora, noi non capiamo come mai ci sia questo sposalizio, questo matrimonio strano fra chi in realtà in maniera forte premeva verso uno stile architettonico con un linguaggio internazionalista, quando invece il regime aveva molto bisogno di trasporre anche nell'edificazione, negli edifici soprattutto importanti, un'immagine del regime che fosse un'immagine rappresentativa, una simbologia, un monumentalismo, una normalità, che poi fu invece il linguaggio di Piacentini. Ed è interessante anche capire in questa chiave quando si affievolì questa spinta rivoluzionaria. In pratica, se si potesse dare un riferimento cronologico, possiamo dire che fu proprio all'inizio degli anni 30, con l'esposizione, la seconda esposizione dell'arte razionalista, quando ci fu il cosiddetto tavolo degli orrori, che gli stessi architetti razionalisti capirono che non potevano andare avanti, non potevano spingersi oltre. E lì si iniziò una sorta di, come potremmo dire, di confronto-incontro che non dico che fece fare dei passi indietro a quello che era il linguaggio razionalista, ma si cercarono dei ponti, perché gli stessi giovani architetti capivano che, andando contro l'Accademia, in particolare Piacentini, diciamo che le figure, apro una parentesi, le figure importanti nella vicenda architettonica e soprattutto per la categoria professionale erano, in Italia, Piacentini, Giovannoni e Calzabini. Tutti i concorsi nazionali se li spartivano, le presidenze dei concorsi nazionali se li spartivano queste tre persone. Giovannoni e Piacentini si prendevano rispettivamente il 40% a testa delle presidenze e un 20% lo lasciavano a Calzabini. Ecco, gli architetti capiscono a un certo punto che, continuando a individuare nel nemico l'Accademia, Piacentini e il suo entourage, non avrebbero avuto la possibilità di concorrere e di vincere i concorsi nazionali. E indebolendo Piacentini avrebbero indebolito quello che poteva essere il loro sponsor principale. Quindi la polemica che fu particolarmente forte nella seconda metà degli anni 60 e in parte ancora all'inizio degli anni 30 andò piano piano spegnendosi, la polemica fra il classicismo e il razionalismo, e presero il via concorsi nazionali in cui si glissava su questo aspetto. Sintomatico è il concorso nazionale che viene bandito per la Casa per l'Alto Adige nel 1934, quando nelle regole del concorso c'era scritto: in fin dei conti la polemica fra classicismo e razionalismo è una polemica che possiamo far finta che non esista. Diamo delle regole per costruire la casa italiana in Alto Adige, lo stile prettamente italiano, poi li vedremo un po' nel dettaglio più avanti, ma quello che ci interessa è capire come da una parte seguire la vicenda architettonica secondo una storia che ha sicuramente legami fortissimi con il regime, ma da un certo punto di vista se ne distanzia. Segue, per così dire, alcune sue vie, soprattutto per quanto riguarda il linguaggio architettonico. Noi abbiamo, negli esempi che facevamo anche prima, una sopravvivenza e uno spazio che il regime lascia alla costruzione di opere che si riferiscono ad un linguaggio architettonico internazionale, moderno e internazionale, cosa che ad esempio nell'architettura della Germania fascista non avviene. L'architetto per eccellenza è Speer, e tutti gli altri architetti che non si irregimentano vengono cacciati o devono scappare. Questa è la differenza, cioè mentre possiamo dire che esista, per così dire, una architettura del Reich, per la vicenda architettonica italiana non possiamo dire che esista un'architettura fascista. Ritorno un attimo a proposito di questa chiave per seguire le vicende architettoniche, che è la chiave del moderno, della modernizzazione. riprendiamo un po' il discorso, per il fascismo si trattava quindi di creare nuove figure professionali che superassero, che avanzassero in qualche modo, sostituissero quelle che erano le resistenze della tradizione, anche politica, delle tradizioni politiche locali. Alberto Calzabini, segretario nazionale degli architetti, dell'Ordine degli Architetti, di cui tra l'altro abbiamo una splendida opera architettonica a Bolzano, e sono le case degli impiegati dello Stato che si trovano vicino all'ex ospedale. Non so se avete presente, di fronte alla Colping c'è questa palazzina delle case per gli impiegati di Bolzano, costruita da Calzabini su un modello che era un modello abbastanza diffuso nell'epoca a Roma, costruito nel barocchetto romano, in uno stile che viene definito barocchetto romano. Una casa molto interessante da un punto di vista architettonico, perché apre al suo interno cortile, una piazza, quindi socializzata, un intervento architettonico molto interessante. Ecco, Calzabini, su cui tra l'altro c'è un aneddoto che, se mi interessa poi raccontare, ve lo racconto più avanti quando parleremo brevemente anche degli edifici a Bolzano. Ecco, Calzabini, che aderisce ideologicamente in maniera convinta al fascismo, definisce dannoso ed inutile l'aspetto della sopravvivenza democratica degli enti, plaude all'amministrazione fascista come esempio di efficientismo per costruire una sana e felice modernità. Dentro alla adesione convinta al fascismo, che fu di Calzabini ma fu di molti altri, di un funzionariato dello Stato che negli anni 20, in virtù della crisi della democrazia giolittiana, di come era crollato lo Stato e come era crollata l'efficienza dello Stato in quel periodo, avevano visto nel fascismo la possibilità di dare efficienza alla macchina statale, e entrarono in maniera convinta, chi poi proseguì in questa sua adesione convinta e arrivò fino alla fine del ventennio convintamente fascista, altri invece a un certo punto capirono dove portava quella storia. Ecco, in questa spinta verso il moderno, molti crede in questo caso anche l'architetto Calzabini. E in questa polemica che viene aperta, in questa critica che viene aperta agli enti, evidentemente, per quanto riguarda la vicenda architettonica ed edilizia, vengono presi di mira anche gli enti, gli istituti per le case popolari. A Bolzano uno dei primi interventi degli anni 20 è quello di Viale Venezia, che è l'istituto, che è, diciamo, l'ente che costruisce l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Venezia, che costruisce un piccolo quartiere di grande pregio architettonico, nel senso che si dà a questo quartiere un linguaggio che gli architetti definiscono vernacolare, cioè un linguaggio che è attento a prendere gli stili veneziani, quindi molto attento al regionalismo, perché lì era il primo passo, o se non il primo, il secondo, perché prima c'erano le case per gli impiegati di Holzmeister che erano state costruite vicino al Palazzo degli Alti Comandi. Ecco, diciamo che è uno dei primi passi dell'architettura italiana in Alto Adige. Quelle case, negli anni 30, sulla scorta di quello che stiamo dicendo ora, cioè che corrisponde poi negli anni 30 a un processo di entificazione, come viene definito dagli storici, del partito all'interno degli enti, cioè il partito si prende gli enti, entra con la sua burocrazia a guidare lo Stato, la macchina pubblica. Un fenomeno che sappiamo è proseguito un po' anche nel dopoguerra, no? Di cui il nostro apparato statale ha preso, no? Questa forte intromissione della politica dentro la macchina dello Stato. Ecco, in questo processo vengono presi di mira anche quelle casette. All'inizio, in preciso, nel 1931 un articolo sulla provincia di Bolzano, quotidiano fascista, se la prende con quelle casette, che dice non sono costruite in stile italiano, lì c'è un guazzabuglio di stili, bisogna costruire in stile prettamente italiano. E in stile prettamente italiano, una critica sullo stile prettamente italiano viene fatto anche a quell'intervento di Calzabini, segretario, è giusto ricordarlo, del sindacato degli architetti in Alto Adige. E chi se la prende con Calzabini? Se la prende un tale Italo Lunelli, che è il direttore di un quotidiano pubblicato a Trento, il Brennero, il quale dice: ma questo architetto non sa, non ha capito come bisogna costruire in Alto Adige. E dice: in Alto Adige non bisogna ambientarsi come linguaggio architettonico, ma bisogna ambientare. Io vi vorrei leggere la risposta di Calzabini, che si deve essere sentito quantomeno colpito dal fatto che lui pensava di aver fatto un'opera di qualità rispettando lo stile prettamente italiano, ma che si sente tirare le orecchie da questo Italo Lunelli, e Calzabini risponde in questo modo: ho potuto credere che dare una timida espressione di buon gusto alle esigenze di costruzione e di destinazione dei fabbricati non dovesse costituire una preoccupazione di architettura politica. Anche e soprattutto perché non è il caso di parlare di architettura per qualche modesta casa ed abitazione per impiegati, dirò di più. Le colonne, gli archi, le mensole, gli stemmi e tutt'altro l'ornamentario architettonico, stucchevole anziché no, specialmente quando è proprio di stucco, perché di stucco era, stanno lì nelle povere case incriminate proprio a rappresentare una concessione alla forma e alla espressione tradizionale dell'architettura italiana. Una concessione, ho detto, perché se non si fosse trattato di una così delicata zona di influenza, avrei dato agli edifici un aspetto anche meno pretenzioso e più strettamente aderente alle esigenze di destinazione. Poi la lettera prosegue. Perché è interessante questa lettera? Perché alla fin fine, se riprendiamo il discorso che facevamo prima, come lo possiamo spiegare questo scontro che avviene tra un fascista e un altro fascista, fra il direttore di un giornale fascista come il Brennero e il presidente e segretario del sindacato fascista degli architetti, nonché uno degli architetti del regime, uno degli ispiratori delle facoltà di architettura in Italia, perché ebbe con Mussolini un rapporto anche abbastanza stretto che poi portò ad esempio alla fondazione della facoltà di architettura di Napoli, di cui fu tra l'altro anche preside. Come lo spieghiamo se non lo collochiamo in quella storia che dicevamo prima, cioè in questo lento maturare della presa del partito dentro agli enti, in una logica tutta interna al fascismo, dove sulle case incriminate questa accusa di non riuscire a dare il perfetto stile italiano era quell'elemento che in qualche misura mascherava una lotta ed una spinta sempre più decisa del fascismo verso un coronamento di quella che era la definizione dello Stato totalitario e del regime in Italia. Ed è importante in questa chiave, e penso che arriverò a concludere, anche se sono scusate, in questa chiave è importante capire che cos'è il concetto di moderno, come si afferma il concetto di moderno, e anche per riuscire a, come poter dire, depotenziare, se potete passare questo termine, la lettura di un edificio degli anni 30. In che senso depotenziare? Perché una cosa è riconoscere una qualità architettonica e un'altra cosa è capire che quale moderno quell'architettura porta dentro, storicamente. Che cos'è il moderno per il fascismo? Il moderno è efficientismo, non efficienza, è tecnocrazia e non tecnica, ed è modernismo e non moderno. Il moderno viene accompagnato da una serie di regole e di prescrizioni che arrivano fino a determinare come una casa all'interno deve essere costruita. Nelle regole del bando per la casa per l'Alto Adige erano descritte queste regole, molto interessante. La casa diventa il santuario benedetto degli affetti sinceri, c'è una religiosità dentro che difficilmente si può leggere in una, si fa fatica a leggere in una casa. E dentro la casa, dentro quegli interni, si deve muovere un individuo leggibile, trasparente, che si sa dove si muove e si sa che cosa fa. Non a caso nell'architettura di quegli anni sparisce il salotto dell'Ottocento, spariscono i ninoli, spariscono le librerie, sparisce tutto quello che è l'esperienza personale, il vissuto della persona, e appare uno spazio rigorosamente trasparente, come lo sarà lo spazio architettonico della casa di Terragni a Como, perché Mussolini ha detto il fascismo è trasparente, e in questa trasparenza c'è sia una trasparenza che è quello di poter leggere, ma anche quello di riuscire a leggere, di cogliere l'individuo laddove si trova. Le vie e le piazze nella topografia della città fascista sono le vie e le piazze degli esercizi, certo, anche quelli commerciali, ma anche quelli fisici. E la città fascista, la città che edifica Piacentini, è una città che ha un'alta qualità urbanistica, un'alta qualità architettonica, però è una città che non risolve la questione sociale. È una città borghese che non riesce a collegarsi con la città operaia. È una città che è riconoscibile per i suoi simboli, allora, ma non è riconoscibile dalle migliaia di persone che abitavano le periferie e che quella città non sapevano nemmeno che cosa fosse. Ecco, io sono costretto per tempi a fermarmi qui, perché sennò porto via troppo tempo al mio collega che già pazientemente ha aspettato. Con piacere. Nel caso ci saranno domande. Grazie, buonasera. Penso che la mia voce raggiunga lo stesso il microfono, perché a leggerlo mi imbarazzo. Dunque, permettetemi intanto di iniziare con due microscopiche osservazioni sul titolo. È interessante osservare che relitto si ricollega etimologicamente al verbo latino relinquere. Questo verbo significa lasciare indietro, e cioè non prendere con sé. E relitto è quindi letteralmente ciò che è stato lasciato indietro, ciò che non è stato preso con sé da quel mostro terribile e vanificatore che è il tempo, il quale, è vero, distrugge quanto più può, ma, come ci dice il poeta, non è poi la devastante ruspa che si dice. Connesso al termine relitto è poi il termine reliquia, il quale sta, rispetto al primo, in un più stretto legame concettuale con l'idea di intenzionalità. Se infatti il relitto perviene fino a noi in modo del tutto casuale, come un veliero sprofondato negli abissi e ritrovato dai cercatori di tesori, la reliquia è trasmessa intenzionalmente ai posteri, perché essa venga venerata, caricata di simboli e di sensi, incaricata di sostenere, perpetuare e giustificare un'ideologia, sia essa religiosa o politica. Tanto è vero che delle reliquie, quelle per esempio dei santi, adesso pensiamo alle penne dell'Arcangelo Gabriele e alle braccia su cui era stato arrostito San Lorenzo nella novella boccaccesca di Frate Cipolla, o nelle reliquie del legno della croce, sono circolate prestissimo argute falsificazioni che da un lato provano l'importanza degli originali, dall'altro anche, mi pare, contribuiscono a demistificarne non tanto l'originalità quanto piuttosto le virtù taumaturgiche. Tant'è. La prima domanda che io mi rivolgo e che rivolgo anche ai miei benevoli uditori è quindi: sono quelli fascisti dei relitti, come ormai è vulgatamente acquisito, o delle reliquie? Su questo tema torneremo oltre. La seconda parte del titolo contiene un tema, quello culturale e della tutela dei beni culturali, che l'aspro confronto politico, sovente venato di nazionalismo e di razionalismo, ha per lo più trascurato di prendere in considerazione. I segni del passato, compresi quelli che appartengono al ventennio del regime fascista, sono beni culturali. Possiamo istituire una graduatoria con manifestazioni artistiche, architettoniche, urbanistiche, eccetera, che meritano il titolo di opera d'arte, e altre di così bassa qualità da non farsi troppo desiderare, ma esse sono, ad ogni buon conto, beni culturali. Che cos'è un bene culturale? Bene culturale è tutto ciò che appartiene alla creatività dell'uomo e ne documenta il grado di civiltà. Questa definizione è assolutamente sintetica, non è l'unica possibile. Sul tema dei beni culturali si è sviluppata comprensibilmente si è sviluppato un lungo e intrecciato dibattito, per cui accontentiamoci intanto di assumere questa idea, appunto, che il bene culturale è tutto ciò che appartiene alla creatività dell'uomo e ne documenta il grado di civiltà. In una definizione di questo tipo c'è posto per tutto, naturalmente, per i monumenti, per le strade, per i dipinti, per la musica, i libri, gli archivi, e anche per tutto ciò che vi fa da sfondo in una stretta relazione di reciproca necessità, e qui mi riferisco in particolare ai beni paesaggistici e ambientali. Non c'è dubbio che nell'idea di bene culturale rientrino anche i toponimi e gli odonimi, che sono localmente da sempre motivo di scontri tanto più incomprensibili se si pensa che su di essi esistono forti indicazioni giuridiche, che non si può disconoscere o ignorare o ricondurle furbescamente al proprio tornaconto, come ha fatto giustamente notare pochi giorni fa Francesco Palermo in un lucidissimo contributo sul tema pubblicato dall'Antorange. Ma se era giusto affrontare il problema della toponomastica anche da un punto di vista giuridico, mettendo in evidenza gli aspetti che potrebbero contribuire a una pacificazione degli schieramenti, perché di questo in queste settimane si parla e si straparla forse natamente, non è fuori luogo secondo me lamentare con Francesco Palermo che il tema della toponomastica è risolto una volta per tutte dallo Statuto di Autonomia. Non si riesce francamente a comprendere pertanto perché esso riemerga in continuazione e per lo più in coincidenza con gli appuntamenti elettorali. Ma non voglio parlare di questo, altri più qualificati di me lo hanno fatto e lo faranno. Sarebbe peraltro auspicabile che chi ne ha l'autorità estraesse dal cassetto le innumerevoli relazioni delle innumerevoli commissioni di esperti riunitesi negli anni per dare un contributo scientifico alla soluzione del problema della toponomastica. D'altra parte, non c'è dubbio che riproporre sempre i medesimi problemi, con l'evidente intento di non risolverli, ma di farli gravare sul dibattito politico, culturale, civile di una comunità, e in definitiva sulla qualità stessa della sua esistenza e della convivenza, introduce nella medesima un disagio quasi autistico, relegandola all'interno di una gabbia culturale mentale in cui non c'è spazio se non per ripetere la memoria all'infinito, come un Rainman, i numeri dell'elenco telefonico della nostra astiosa e irresponsabile autonomia. Transeat. Ciò che finora non si è fatto, se non in piccolissima parte, e vorrei dire specialmente per merito di Italia Nostra, ma è giusto rammentare anche i molti condivisibili pezzi di Paolo Campostrini e un ottimo contributo di Romano Viola su questo argomento e sulla possibilità di trasformare Bolzano, rispetto agli eliti fascisti, in ciò che ora Linz, capitale europea della cultura, rispetto agli eliti del nazismo, e appunto guardare i cosiddetti relitti fascisti non solo come ai residui odiosi di un regime violento e liberticida, ma soprattutto come a testimonianze della creatività e del gusto di un'epoca che arretra sempre più nel passato, ma non per questo cessa di richiedere alle nostre coscienze di confrontarci criticamente con essa. Siamo perfettamente consapevoli che questi beni culturali rappresentano ancora per molti cittadini non solo di lingua tedesca, un ricordo moralmente insopportabile di ciò che quel regime ha potuto contro di loro, ovvero ormai contro i loro padri. Vorrei però tranquillizzare questi amici e dire loro che qualsiasi regime totalitario è stato ciò che è stato per tutti coloro che lo hanno subito ed eventualmente hanno voluto e saputo opporvisi, e non solo per loro. Mario Longone è italiano, per dire, e così i 23 ragazzi uccisi dai nazisti nel settembre del 44 alla caserma Mignone. Ma anche a prescindere da ciò, quanto il ventennio fascista lasciato in Alto Adige a Bolzano è doppiamente meritevole di essere conservato, restaurato, valorizzato, conosciuto e compreso. In primo luogo in quanto manifestazione appunto della creatività e del gusto di un'epoca. Qui, come ci ha ricordato Giorgio Mezzalira, il regime non lesinò affatto quanto a qualità degli architetti e degli urbanisti chiamati ad esprimersi localmente. In secondo luogo tutto ciò va valorizzato e tutelato come esibizione plastica degli errori storici e politici di un regime del quale non vorremmo più cadere vittime. Qui mi ricollego ancora una volta all'idea di storicizzare quel periodo, le sue manifestazioni, a cui faceva riferimento prima Giorgio Mezzolini. Mi si permetta un brevissimo intermezzo polemico. Quando Italia Nostra sostiene la necessità di tutelare e valorizzare questi monumenti, si badi, l'abbiamo detto, in quanto beni culturali e non ovviamente per l'apologia di fascismo, puntualmente arriva l'accusa che Italia Nostra sia un circolo di destra. Uso letteralmente la colorita espressione del nostro ineffabile vice sindaco. Dimenticando quante volte Italia Nostra si sia spesa a tutela di beni culturali che alcuni definirebbero tedeschi o comunque non italiani e che per noi sono solo ed esclusivamente beni culturali. Valgano per tutti l'ex Pertura di Monguelfo, la cantina di Gries, il biotopo di Castelfede, la gola del Rio Fago e adesso anche il Virgolo. Italia Nostra non deve esibire patenti di lealtà democratica e autonomistica. Queste patenti siamo noi a chiederle a coloro che fanno l'impossibile per tradurre gli sforzi di dialogo e di comprensione reciproca in altrettanti anacronistici motivi di contrasto e di recriminazione tra i gruppi. L'accusa che Italia Nostra sia di destra è così ridicola e triviale che quasi non meriterebbe di essere commentata, se non fosse che introduce l'erronea opinione, erronea voglio dire da un punto di vista logico-razionale, che chi si batte per la tutela dei beni culturali e ambientali possa essere, per ciò stesso, un fascista, un nazista, un giacobino, un cattolico, un ateo, a seconda che i beni che vuole proteggere possano essere catalogati come fascisti, nazisti, giacobini e così via. Ciò presuppone peraltro che esistano beni culturali fascisti piuttosto che beni culturali di età fascista. Quei monumenti, nati a glorificazione di un regime, saranno fascisti anche oggi, e sottolineo la determinazione di tempo, solamente per coloro che vi si rivolgeranno appunto come a manifestazioni che glorificano un regime per loro glorificabile. Saranno cioè, per rispondere alla domanda iniziale, delle reliquie. Per tutti gli altri, e credo di poter dire che si sono la stragrande maggioranza degli abitanti di questa terra, i monumenti fascisti sono ormai solo monumenti di età fascista, spesso più che apprezzabili sotto il profilo estetico, e meritevoli pertanto di essere conservati e tramandati alle nuove generazioni che vi troveranno motivi di riflessione e di edificazione culturale e spirituale. Per tutti questi motivi non posso condividere l'opinione violenta di alcuni cittadini di lingua tedesca che chiedono la rimozione, la distruzione, la cancellazione di beni culturali politicamente sgraditi, ma condivido l'opinione di molti amici di lingua tedesca per i quali i monumenti fascisti devono essere commentati, cioè non possono essere lasciati lì, come se dovessero per sempre testimoniare l'appartenenza schiavile e quindi coatta dell'Alto Adige allo Stato nazionale. Apro una parentesi per dire che l'autonomia rende già l'Alto Adige di fatto uno Stato nello Stato, per certi versi. E cioè, implicitamente, il fatto che questa appartenenza sia stata, per così dire, fondata dal fascismo, il cui testimone di violenza e sopraffazione è poi passato sostanzialmente inalterato nelle mani dell'Italia repubblicana. Ma questi monumenti devono essere provvisti di pannelli che ne spieghino il significato storico e politico. Tuttavia, a questi amici di cui condivido l'opinione, ricordo che ad esempio il Monumento alla Vittoria è già spiegato e commentato. Ci sono, li avete visti tutti, i pannellini metallici che ne illustrano sinteticamente il significato. Vogliamo spiegare e commentare anche il Palazzo degli Uffici Finanziari? Facciamolo. Anzi, vorrei dire, fatelo. Mi meraviglio che l'SVP, che può impedire a oltranza una città capoluogo in cui non ha politicamente la maggioranza che altrove di dotarsi di un adeguato strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica e che siede nei banchi di una maggioranza che si è spesso mostrata più che benevola nei suoi confronti, non riesco a fare scrivere due righe per commentare il bassorilievo del Palazzo degli Uffici Finanziari. Questa è una cosa francamente, per me, come minimo incomprensibile. Hans Pifrader, artista di lingua e formazione tedesca, tenente dei Kaiserjäger nella Grande Guerra e autore di un monumento ad essi eretto a Bergisel, Hans Bittrader da Bleiber, oltre che celebrato scultore attivo sotto il fascismo, su appunto il bassorilievo del Palazzo degli Uffici Finanziari, subisce, si direbbe, il risentimento postumo dedicato ai traditori. Per questo, anche per questo, ogni tanto le sue opere vengono minacciate di distruzione. Secondo intermezzo polemico, e qui mi fa particolarmente piacere sia presente l'assessore e vicepresidente Tomasini, perché sono dettagli di politica provinciale che possono essere di, credo saranno di suo interesse. Ecco, forse non tutti sanno che una legge dello Stato dispone che gli edifici pubblici che hanno più di 50 anni, e qui è chiaro che tutti gli edifici pubblici di età fascista ricadono in questa definizione, sono perciò stesso sottoposti a vincolo monumentale. Questo è contenuto nella legge dello Stato del 2004, conosciuta come codice urbani o codice dei beni culturali del paesaggio, che riprende con pochissime variazioni una importante legge promulgata in età fascista, che è la legge 1089 del 1939, che per la prima volta regolamentava in modo preciso la materia dei beni culturali in Italia. E il vincolo monumentale nel resto d'Italia è un atto del ministro competente, in Alto Adige invece è un atto della giunta provinciale con cui si dichiara il valore culturale di un immobile e la sua protezione per l'avvenire. Il vincolo viene annotato al libro fondiario e accatastato con un ceppo sull'immobile. Tale atto di norma deprime il valore dell'immobile, che ovviamente vale di più sul mercato se non ha ceppi di sorta, e questo è il motivo per cui in genere i privati cittadini guardano con insofferenza all'imposizione di un vincolo su un terreno o un edificio di loro proprietà. Nel 2005 la giunta provinciale ha emanato una norma che di fatto svuota quella statale di qualsiasi valore, imponendo che gli edifici pubblici con più di 50 anni siano vincolati solo su espressa richiesta della soprintendenza. Altrimenti, manufatti di grande valore artistico, come ad esempio l'ippodromo di Maia, il municipio di Merano, l'ex GIL di Via Roma sempre a Merano, l'ex GIL di Bersanone o a Bolzano, gli uffici finanziari e il tribunale in piazza Tribunale, la biblioteca civica, che ancora attendono di essere vincolati, valgono tanto per dire quanto un brutto edificio popolare degli anni Ottanta, cioè niente. Per non parlare di molti edifici di proprietà privata che allo stesso modo meriterebbero di essere vincolati. Io ho reperito una piccola lista di edifici sotto tutela, e, per esempio la stazione, edifici di questo periodo sotto tutela, la stazione ferroviaria ristrutturata nel 28, gli edifici dell'ex industria nazionale alluminio, la chiesa di Cristo Re, lo stadio Druso, l'ex GIL e l'edificio dell'Eurac citato da Giorgio Mezzalira, l'asilo ex ONAIRC di Viale Venezia, il palazzo ducale con pertinenza e parco, gli edifici dell'Incis in via Carducci, il Lido di Bolzano, il muro di recinzione dell'ex lager di Viarese, il monumento alla Vittoria, che però, come sapete, è vincolato per competenza statale, non per competenza provinciale, la sede della Cassa di Risparmio, ristrutturata negli anni 30, e il cimitero civico in via Maso della Pieve. In totale si tratta di 13 complessi vincolati, e tra, sotto tutela, cioè tra i non tutelati, si trovano gli uffici, come dicevo, gli uffici finanziari, il Tribunale, l'ex sede del quotidiano fascista La Provincia e poi del quotidiano Alto Adige, sopraelevato negli anni 60, la Biblioteca Civica, gli edifici intorno a Piazza Vittoria, Palazzo Rossi, Piazza Mazzini, altri palazzi lungo Corso Libertà. Oh, questi non sono tutti pubblici, ovviamente, sono molte cose anche private. A Merano, sotto tutela, c'è il campo sportivo Giampiero Combi, ma non tutelati sono per esempio il municipio, come dicevo, l'ex GIL e l'ippodromo, inspiegabilmente. A Bressanone non tutelati, per esempio l'ex GIL, a Brunico non tutelato, il monumento degli Alpini, a San Candido e a Malles i due ossari che, come tutti sanno, storicamente sono due falsi giganteschi, ma direi che proprio per la loro qualità di falsi meritano in assoluto di essere conservati e additati alla nostra coscienza critica per capire che cosa possa un regime totalitario nell'invenzione propagandistica. Naturalmente sono tutti fenomeni di propaganda ai quali noi oggigiorno fortunatamente non assistiamo più. Bisogna notare che la soprintendenza può anche proporre un vincolo, ma è poi la giunta provinciale che emana il relativo atto. Quindi se l'orientamento politico, come in effetti si verifica attualmente, è contrario alla tutela di questi monumenti, la proposta di vincolo avanzata dalla soprintendenza può essere rigettata e il monumento rimanere senza protezione giuridica alcuna. Con riferimento ad esempio al Palazzo degli Uffici Finanziari, l'assessore competente si è già detto contrario a qualsiasi vincolo. La soprintendenza che fa? Evita ovviamente, e ciò si comprende molto bene da un punto di vista strategico, di andare incontro a un insuccesso, e cioè il rigetto della proposta di vincolo da parte della giunta provinciale, che in definitiva la indebolisce. Ma così facendo la soprintendenza finisce per indebolirsi ugualmente, in un senso ulteriore e forse più profondo e gravido di conseguenze sul piano anche morale, perché un ufficio tecnico deve andare avanti per la propria strada, indipendentemente dal gradimento che possa riceverne dalla parte politica, soprattutto se questa strada è tracciata dalla legge e definita dalle necessarie competenze tecnico-scientifiche. La storia, come si diceva all'inizio, distrugge quanto più può, ma conserva quasi sempre la rispettiva posizione degli attori che sulla scena hanno interpretato il gioco delle parti, e questo dovrebbe stimolare tutti, per quel che vale, a giocare correttamente fino in fondo il proprio ruolo, nell'interesse di tutti, visto che i beni culturali sono, almeno giuridicamente e in linea teorica, beni collettivi. Italia Nostra sarebbe per rivedere questa norma provinciale, verificare innanzitutto la legittimità giuridica e stanare il potere provinciale sugli effettivi intendimenti di un procedimento di questo tipo. Si tenga presente infine che la soprintendenza dovrebbe avere ben più funzionari e ben più mezzi per fare fronte anche a questo nuovo carico di lavoro che la legge statale, se non altro, la esentava dall'accollarsi. Alcuni mesi fa, quando imperversava la polemica sui monumenti che ha preceduto quella attuale sui toponimi, Italia Nostra scrisse un articolo di provocazione in cui in pratica si diceva a tutti: sangue freddo, i monumenti sono vincolati, quindi non corrono alcun rischio. Questo è un discorso che, come abbiamo visto, dalla lista dei vincoli valeva solo, quasi solo per il Monumento alla Vittoria. Mi aspettavo che qualcuno intervenisse per dire che questo non è vero, ma non è successo. Un amico sindaco di un comune altoatesino, che ho interpellato sul perché di questo silenzio, mi ha spiegato che quando un intervento a mezzo stampa colpisce nel segno, chi ne accusa il colpo non ha alcun interesse a richiamare ulteriormente l'attenzione dell'opinione pubblica sul medesimo, per mezzo di una smentita. E io che mi aspettavo il dibattito, come si dice, o gran bontà dei cavalieri antichi. Ma tutto questo si innesta su un discorso ben più ampio, che prende il nome di difesa della memoria del Novecento. Credo di aver portato finora sufficienti puntelli a sostegno della tutela dei beni culturali di età fascista come aspetto di un più generale atteggiamento di protezione dei beni culturali, di tutte le epoche e di tutte le estrazioni. Tuttavia è chiaro che tutelare quei beni esige un contraltare che consiste nel tutelare anche, ad esempio, le manifestazioni del razionalismo tedesco, meglio noto con il nome di Tiroler Moderne, e di cui sono varie testimonianze anche in Alto Adige, per esempio a Collisarco, opera dell'architetto Wilhelm Nikolaus Prakensky. Contestualmente si richiede che la difesa della memoria artistica e culturale del Novecento, da qualunque ambiente prodotta, sia un affare condiviso da tutti i gruppi. E qui mi rivolgo non solo alla società civile e alla politica, ma anche agli amici delle associazioni protezionistiche di lingua tedesca. Perché è nel Novecento che si produce l'Alto Adige sui Tirol di oggi, che piaccia o meno, ed è su questo terreno che i gruppi si scontreranno o si incontreranno una volta per sempre. Ringrazio. Quelle che sono le cose che noi, di cui lei ha parlato, come simboli, perché i simboli li creano le persone che le vogliono strumentalizzare per fini politici. E quindi quello che lei ha detto prova sicuramente la mia assoluta comprensione e la ringrazio per quanto è. Prego. Sì, volevo chiedere qualche cosa di più allo storico, anche se mi ha ancora parlato il dottor Pettiati, su questo particolare rapporto con alcuni artisti sul fiore. Che ne so, oltre al caso macroscopico di Trader, che il nostro sindaco poi proponeva di mettere l'opera nel museo, non so neanche se ci sta, perché credo che sia lunga qualche metro di più del cubo del museo. Forse era una battuta dadaista per disinnescare il dibattito. No, penso anche a quelle Strenger e in arti figurative migliori, forse allora, di valore architettonico, non so, questi scultori che hanno fatto opere di stazione, eccetera. Partiamo, di Pifrada forse va ricordato che Ettore Tolomei, nella sua mania di dare nomi italiani, l'aveva chiamato Peraforada. Quindi... sì, no, certo, no, va ricordato come aneddoto. No, il rapporto che il regime intrattenne con questi artisti è interessante. Possiamo prendere a partire da quello che lei ricorda. Trenker insieme a Egerliens, insieme a Stolz, furono i fondatori del Südtiroler Künstlerbund nel 23, ed era un'associazione di artisti sudtirolesi. Artisti sudtirolesi che si erano messi insieme sostanzialmente per valorizzare l'arte che producevano, e con un fine, potremmo dire, professionale, no? Di interesse di categoria. Di fatto il regime diede spazio a questi artisti soprattutto ed esclusivamente nelle biennali d'arte della Venezia Tridentina. Difficilmente trovavano spazio per mostre personali, il regime non glielo permise. E credo anche nella storia di Pifrada, nella sua esperienza artistica, rimase sempre un artista, evidentemente come molti che avevano la loro commissione, prendeva quello che poteva, era la sua scelta di vita. Non entrò, per quello che si sa dalla ricostruzione che ne è stata fatta, la sua biografia, non fu né un aderente evidentemente, né un così simpatizzante. Però evidentemente potevano gli artisti rosicchiare quei piccoli spazi che il regime permetteva, per cercare di, primo, riuscire a fare il lavoro che avevano deciso di fare e poter esprimersi nella loro arte fin dove il regime li lasciava esprimere la loro arte. Nel caso di Pifrader, sicuramente l'avergli commissionato questa opera importante per la Casa del Fascio, era in fin dei conti e la sede del Partito Nazionale Fascista, fu per lui un grande business, per così dire. Sappiamo anche dalle lettere, dal carteggio, che alcuni dei suoi bozzetti del bassorilievo non furono ben accetti e lui dovette ridisegnare più volte per riuscire ad assecondare quelle che erano le richieste, in questo caso della committenza. Dove fare uno sforzo per contestualizzare, sì, l'edificio. Sì, forse posso precisare. Sì, intendevo dire questo, cioè siccome è soprattutto dalle frange della destra di lingua tedesca che emergono posizioni che vanno dal desiderio di cancellazione, rimozione, distruzione, fino a posizioni più moderate, condivise anche da altri più moderati, e cioè di storicizzazione, cioè come minimo di scrivere un pannello fuori dai principali monumenti dove questi si spiegano, si dice che cosa sono, a che cosa servivano e a che cosa servono oggi. Ecco, siccome è soprattutto dal mondo di lingua tedesca che proviene questa indicazione, mi pareva che a Bolzano il rappresentante di questa, il partito rappresentante di queste posizioni fosse e sia principalmente la SVP. Quindi trovavo più appropriato che invece di continuare ad urlare davanti ai monumenti si facesse più concretamente un'opera di storicizzazione, devo dire che contestualizzazione anche a me non piace troppo. Comunque credo che con questo termine si intenda sostanzialmente la storicizzazione, cioè ricondurre questi monumenti al significato che avevano, negando che questo significato questi monumenti lo posseggano ancora, no? Ecco, intendevo questo. Intendesi su questo termine, sì, sì. Il monumento di per sé, per la parola latina, lo dice, un monumento che ricordo, no? Quindi è lì che testimonia, qualsiasi monumento testimonia il periodo in cui fu costruito, certo. Questo. Qui in Alto Adige, in questa strana provincia, storicizzare vuol dire piegare alle ragioni politiche, vuol dire piegare a una strumentalizzazione politica, sappiamo quali sono le ragioni della politica. Allora, se si tratta di dire, allora credo sta bene, il Monumento alla Vittoria, inaugurato se non sbaglio nel 1928, stile tal dei tali, architetto Piacentini, informazioni che si possono trovare su qualsiasi guida turistica, idem per gli altri, che so io, edifici pubblici di un certo, come dire, rilievo, di certa importanza. Ma se si tratta poi di fare, come dire, dare la spiegazioncina politica, allora non va bene, perché insomma bisogna cercare di parliamo di chiaro. Renzo De Felice, grande storico del fascismo, forse il maggior storico del fascismo, ricordo queste parole, adesso lui attualmente le aveva inserite in un suo testo, in riferimento all'analisi del regime. Bisogna cercare di scindere le ragioni della politica dalle ragioni della storia, ciò che qui non si vuole fare, e sappiamo perché. Le stesse, concludo, targhettine scolorite che spiegano, tra virgolette, il monumento alla vittoria, storicamente non mi pare che siano, il monumento fu costruito per ricordare la vittoria dell'Italia, allora, della prima guerra mondiale, sì, allora. Non è che fu costruito come dire, contro i sudtirolesi, mi pare, in quanto tale, è un discorso più ampio, allora, quindi lì fu voluto questa menatina, poco mi pare, non voglio neanche difendere, poi bisogna giustificare, a me sembra non molto corretta quella, non sembra molto corretta. Se posso rispondo all'ultima parte del suo intervento. Sono d'accordo con lei, le targhe esplicative che oggi accompagnano il monumento sono frutto di una mediazione politica, non le ha scritte nessuno storico. Quindi quella non è un'opera di storicizzazione. L'opera di storicizzazione è piuttosto un'opera un po' più seria, che noi possiamo leggere in tutta Europa di fronte a monumenti importanti e che credo noi potremmo avere anche l'ambizione di poter fare a Bolzano rispetto ad un monumento che si presterebbe ad un'operazione di alto profilo culturale, e per alto profilo culturale intendo anche un'opera seria di storicizzazione e di contestualizzazione. Contestualizzare un edificio storicamente significa riuscire a ricostruire il perché è stato fatto, con quali intenti, in che storia si inserisce, tutto questo, perché se noi togliamo da questo quelle che lei definisce le notiziole, che sono invece il complemento essenziale per una ricostruzione storica, noi faremo un'operazione di basso profilo. Io credo che lì si debba investire, per l'importanza che ha, in un'operazione di alto profilo culturale, e quel posto merita una opera seria di storicizzazione che, tra resto, e va detto, in parte il comune di Bolzano con il suo archivio storico ha iniziato, purtroppo è poco conosciuto, ma i percorsi della memoria, dei luoghi della memoria, sono un modello su cui si potrebbe investire per riuscire a potenziare una lettura storica della città di Bolzano, con alcuni luoghi dove si potrebbero meglio diciamo vivificare e quindi trasmettere, a beneficio non solo dei cittadini ma delle scuole eccetera, di una maggiore conoscenza del posto in cui ci troviamo e delle ragioni per cui quell'edificio è stato costruito in quel modo, con che ruolo, con che funzione, con che messaggio, ma anche sotto quale profilo architettonico. È, come si diceva prima, un'operazione che non può essere fatta in economia. Su questo dobbiamo essere chiari, perché è un'operazione che deve essere culturalmente accettata e quindi deve investire più piani e più livelli. Però questo è un accordo, per così dire, troppo addosso alla politica, appunto. Un'osservazione marginale, che si parla mai di relitti, mentre abbiamo lasciato per esempio le semi-murali, era un intero quartiere degno di nota, degno di recupero, di cui nessuno più parla più, siamo ridotti a una misera casetta. Se andiamo in altre città, ero per esempio mezz'ora fa nella Borghera di Trento, tutte quelle villette sono lì, sono in Italia, hanno il loro verde. Nelle semi-murali abbiamo un insediamento, non so, del professor Raimonino, per esempio, importato dal quartiere di Berlino del Marx, no? Ecco, quindi un'altra ideologia portata con 400 alloggi, con corridoi lunghi 100 metri, dove eravamo andati allora a vedere il complesso di Aldo Rossi a Milano, prima di approvare il grande progetto di Raimonino in semi-rurale. Le donne non ci la, come dire, non ci aprivano le porte degli alloggi perché avevano paura su questi enormi corridoi, avevano paura di questa presunta vita comunitaria e, diciamo, di questa ideologia, e probabilmente aveva ragione. Ormai è un quartiere senza vita questo, anche se ha messo poi una parrocchia che fa il pandan con la parrocchia italiana e la povera è lì, una piazza non piazza che c'è ancora, voglio dire. Mentre si parla qui di un relitto, giustamente, di altre cose, abbiamo lasciato perdere un intero quartiere che poteva essere quantomeno un grande lotto recuperato, non solo per la memoria, eccetera, ma per la vita in se stessa. Per esempio, analoghe operazioni si è fatta per il Trisanto, analoghe operazioni ai piani. Adesso il Comune giustamente ne sa qualcosa e si è dato la tutela ambientale. Ma la tutela ambientale non può essere ridotta a una sola facciata, deve essere il recupero dei cortili, deve essere il recupero di una certa vita, deve essere il recupero del verde. Un'ultima parola, Piazza Mazzini, dove adesso si vuole fare un enorme grasso sotterraneo già esistente un altro. Lì non si tutela affatto il verde, non si tutela la mentalità della piazza. Ormai siamo ridotti per Bolzano a riutilizzare il francobollo dei francobolli. Ecco, quindi qui sarà l'ultimo relitto. In parte credo di aver, in parte ho già affrontato questo tema che lei pone all'inizio, no? Relativamente alle ex semirurali. Le ex semirurali non sono solo Aimonino, non c'è solo quell'idea di città, ma c'è l'idea di città delle casette inglesi, c'è l'idea di città degli Höfe viennesi, Quindi è un tentativo di definire un'identità urbana al capoluogo, un'idea di città. Ma noi sappiamo, fin dalla costruzione del quartiere Europa, il cosiddetto Bronx, quanto sia difficile. Lì c'era definita, si diceva, Bolzano è una città, ci sono i grattacieli. È una città perché ci sono i grattacieli. Ma cosa che poi viene confermata anche adesso, perché non si può allargare, bisogna costruire sì. In altezza e si tolgono. Sì, no, io adesso non entro in questa questione, rimango a livello della discussione del tema che è stato toccato, cioè l'idea di città. Come l'architettura risolve questo? Come può risolverlo? È evidente che le semirurali erano un insediamento completamente diverso, che tra l'altro non aveva niente a che fare con la città, perché dalla città era distante sideralmente, culturalmente, socialmente, gerarchicamente, urbanisticamente. Non esisteva. Era un'idea di piccola frazione, no? Con casette senza fondamenta, va ricordato. No? Quindi, certo, l'idea della città giardino, che poi è stata riletta e recuperata, no? Però insomma, c'è anche... in un certo modo sì. Non dico tutta, perché portarla da 2000 abitanti a 9000, ma poteva essere di più di una misera casetta che ancora non c'è, sì. Quella è persa l'identità, sono perse le radici dei veneti, dei trentini che venivano eccetera, sono perse il legame, diciamo, alla terra, che sì. Con l'Nord era il legame che li conservava. C'è un intervento anche dello sì. Di Barra, sì, io mi devo limitare questo. Ma forse un brevissimo concetto che si inserisce nel discorso che faceva lei prima, cioè quello del recupero, della memoria. Non ci devono essere solo relitti da abbandonare, ci deve essere anche qualcosa da raccogliere. E sto pensando alle tante cose che ci sono a Bolzano, che sono state rimosse e buttate via. Pensiamo alle acque di Ponte Druso, che non voglio recuperare e mettere su Ponte Druso, per amor di Dio, ma cerchiamo di spostarle nel contesto. Si dice della casa della madre del fanciullo di Viale Venezia, c'era un bellissimo bassorilievo dentro, di ispirazione fascista naturalmente, con la mamma, col papà, col bambino, i soldati che marciano, eccetera, eccetera, eccetera. Sono andato per vederlo, non c'è più. L'hanno rimosso e l'hanno portato al magazzino. No, le posso dire, un pezzo di quel bassorilievo è finito a Castel Tirolo ed è in mostra nel percorso del Novecento di Castel Tirolo. Ma mettiamoli tutti insieme. E non c'è stato. Nelle cose, nelle cantine liti, io scrivo qua, là, cerco e... ho trovato un busto alto così di marmo del re Vittorio Emanuele III nella cantina, faceva da pandan con Mussolini nell'atrio dell'ingresso. Mussolini è finito sulle scale, l'hanno scassato dopo il 25 luglio 43. Il re è rimasto. Perché questo povero re, che tra l'altro ha un torace che sembra un Ercole, ma è anche grottesco nel suo insieme, perché non lo recuperiamo a sua volta? Insomma, io vedo di buon occhio un contesto museale nel quale queste cose si conservino, e concludo dicendo che insisto da anni per il recupero dei vecchi ruderi del Teatro Verdi, Stadttheater Bozen, che si trovano sparsi qua e là, un artista demente, un architetto demente ne ha rifilati alcuni in piazza Mazzini, buttati là per terra, altri si trovano nel magazzino della SEAB, nei depositi della SEAB, bellissimi, con dei punti alti così, con delle... insomma, ci sono delle strutture bellissime. Perché non le, io continuo a dire, le si prendono, le si portino vicino al teatro attuale, le si... armonizzano in un contesto e li si propongono alla cittadinanza come memoria storica, perché abbiamo delle memorie asburgiche e fasciste e asburgiche, tutte meritano, a mio giudizio, di essere ricordate. Scusate, approfitto della posizione preeminente che mi è data dallo stare al tavolo per fare solo due considerazioni che hanno a che fare con ciò che è stato detto dall'architetto Rossi e anche dal dottor Frangipane. Sono queste: in quell'idea di città, in quella lettura di quell'idea di città che condivido pienamente, Italia Nostra si riconosce. E diciamo, è proprio per questo che ci sforziamo di vedere ciò che rischia di essere dimenticato o distrutto. Se rischiasse solo l'oblio sarebbe poco, perché insomma le cose dall'oblio si possono sempre recuperare, ma non si recuperano più dalla distruzione, no? Per cui in quell'idea di città c'è anche l'idea che le nostre memorie storiche, i nostri beni culturali devono essere conservati. E la seconda cosa che volevo dire è che una cosa che pochi cittadini di Bolzano forse hanno notato è che il sistema di illuminazione di Corso Libertà è stato rifatto. I vecchi, cioè, in sé è una piccola cosa, ma è una cosa che è stata riportata alle condizioni di non solo di possibilità di godimento estetico, ma anche proprio di funzionalità. È stato riportato in queste condizioni dal comune e pochi cittadini si accorgono che questa operazione è di estrema importanza, perché dà o restituisce un notevole valore al Corso Libertà, che era stato negato dall'utilizzo di questi pali degli anni 30 per attaccarci su lampade di tutti i tipi, eccetera. Per cui sono il primo ad essere critico nei confronti del comune quando è diciamo pigro o lento nel corrispondere a questa volontà di porre fine, insomma, in qualche modo al contrasto intorno ai monumenti. Però sono anche il primo, in piena onestà, che riconosce ciò che è stato fatto. Devo dire che qui il comune ha corrisposto ad una richiesta che era stata fatta appunto da noi di Italia Nostra. E altra cosa che trovo molto positiva, naturalmente tutto non si può avere, mi riferisco a Ponte Roma, no? Tra le cose che si recuperano, devo dire che le spallette del ponte, le spallette originali erano mille volte più belle di quelle attuali fatte in metallo. Per tappare, ripeto, tutto non si può avere, però queste nuove spallette sono fatte insomma, ad immagine e somiglianza di quelle vecchie, e mi figuro che il ponte ritornerà presto ad essere quello che era, insomma. E quindi questo è anche un gesto di attenzione che il comune ha dato anche a questo manufatto. Perché gli apicetti, perché voi li siete da tutti, e anch'io. Sì, la prego. Il liceo Pascoli. Sì, naturalmente, ci sto arrivando. Ma stavo facendo solo la rassegna delle piccole cose. Sì, no. Ecco, sulle Pascoli, per esempio, il discorso delle Pascoli è lunghissimo ed è durato tantissimo tempo anche sui giornali, quindi è difficile riassumerlo, però lo ricordate tutti. Alla fine la soluzione prospettata è quella di salvaguardare la scalinata di accesso, la facciata, che badate non era l'unico elemento di pregio dell'edificio. Il primo elemento di pregio dell'edificio, scusate, apro una parentesi nella parentesi, la salvaguardia della facciata si deve ad una indicazione del tutto formale, ma molto recepita, perché veniva da una persona di grande autorevolezza, che è il vecchio soprintendente Stampfer, il quale si era rifiutato di vincolare le Pascoli perché scientificamente, tecnicamente, non vi aveva ravvisato gli estremi. Però aveva detto: guardate che di questo complesso si può come minimo osservare la riuscita scalinata di accesso e così via. Vorrei aggiungere, perché questo sicuramente era nell'idea, non poteva non essere nell'idea culturale, anche scientifica, di Stampfer, che io conosco bene e che mi onoro di annoverare tra i miei amici, che è questo, cioè le Pascoli si inseriscono ancora per la loro volumetria, si inserivano magnificamente nel quartiere in cui si trovano, no? La battaglia che noi abbiamo fatto, il compianto Nicola Angelucci e io in parte, era una battaglia per non solo per conservare le Pascoli in sé, se fosse stato possibile, ma anche per conservare quella volumetria, no? Ad un certo punto ci è stato detto che le Pascoli, che hanno attualmente circa 25 o 26 mila metri cubi fuori terra, saranno sostituite da un manufatto che ne avrà 75.000, il che significa che la deformazione del, del paesaggio urbano, la deformazione dell'impianto urbanistico e architettonico di quel quartiere ne verrà definitivamente sfregiato, distrutto. Quindi noi ci siamo battuti per le Pascoli, però metto le Pascoli tra i molti insuccessi d'Italia Nostra, non tra i successi, insomma, dal mio punto di vista, proprio per questo, perché salviamo qualche cosa dell'edificio degli anni 30, però perdiamo definitivamente l'equilibrio di un quartiere. Dopodiché io piuttosto piangerei rispetto alle cose che si potevano fare, che citava l'architetto Rossi, io piango molto la perdita del Cinema Corso, per esempio, no? D'altra parte piangere sul latte versato non serve. Bisognava che quest'idea di città, no? In questa definizione molto bella che è stata data, che in questa idea di città ci fosse da parte di tutti, e scusate, non solo da parte degli italiani. Mi rammarico molto che questa sera ci siano prevalentemente uditori di lingua italiana, perché questa cosa in fondo interessa anche i nostri amici di lingua tedesca. Bisognava che questa idea di città fosse radicata da prima, no? Un'idea di città in cui le cose non vengono distrutte e sostituite da cose che mediamente sono sempre più brutte di quello che c'era, no? E poi io vorrei riprendere e chiudere. Volevo riprendere una sollecitazione del dottor Frangipane per cercare di chiudere. Io credo che tutti gli esempi che lei ha fatto e gli applausi, tutte le approvazioni che abbiamo sentito nell'enumerazione dei tanti luoghi che noi abbiamo incasellata nella nostra memoria, beh, tutto questo sicuramente sarà faticoso recuperarlo intero. Possiamo però forse esprimere un auspicio, e questo sì, forse lo possiamo girare, che questa storia del Novecento, che la storia del Novecento trovi un luogo dove essere raccontata. Noi a Bolzano non abbiamo ancora un luogo, dove uno spazio dove questa storia è raccontata. Io spero, e questo è l'auspicio, che il costituendo e progettando museo civico possa aprire uno spazio per raccontare la storia del Novecento. Credo che questo possa essere un auspicio penso condiviso, e con questo credo possiamo forse chiudere. Ci sono sentiti a telefono, non lo scambio di padre.